Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mina mi dà la mano sinistra. È una mano ruvida, da lavoratrice, forte, grande e protettiva. Silvia invece la destra, liscia, morbida e affusolata. Bella e protettiva anche la sua. Mentre gli altri litigano, io sono catturato dal contrasto che c'è tra le loro mani. È sempre Radio 24, sono sempre le 16 e 9 minuti in punto, in diretta oggi da Roma, non da Milano, o meglio, una parte della redazione e della voce da Roma e una parte della redazione invece da Milano. E non siamo in un club di Manhattan o di Brooklyn, siamo sempre a Radio 24, ma quello che sentite sotto, e ve lo faccio ascoltare ancora per 5 secondi, secondo me lo avete già sentito su questa radio. E tornerete a sentirlo, perché la sorpresa di cui vi parlavo ieri, del fatto che il 26 di giugno c'è il live di Voi Siete Qui, cioè l'appuntamento finale con il programma in cui riraccontiamo le tappe di questa stagione e incontriamo le persone che hanno voglia di fare festa insieme a noi, eccetera eccetera, c'è una sorpresa, e la sorpresa è quella che state ascoltando. Mauro Ottolini e la sua band, cioè i Sousaphonics, suoneranno dal vivo insieme a me, che racconterò le storie, le 10 storie della stagione, per il live di Voi Siete Qui. Siccome noi cerchiamo ogni anno di andare sempre un po' più in là con l'asticella, il primo anno abbiamo semplicemente raccontato le storie e ci siamo fatti mandare dei video dei 10 selezionati che si presentavano. Il secondo anno, lo scorso anno, al live abbiamo invitato tutti quelli che avevano scritto quelle storie, gli autori di quelle 10 storie che erano sul palco insieme a noi. Quest'anno invece sul palco insieme a noi, parlo di noi come se fossi il Papa o Maradona, insieme a me ci sarà tutta la band di Mauro Ottolini, tutti i Sousaphonics, che sono 8 mi pare. Bonini, quanti sono i Sousaphonics? Sono 7-8. Se non mi risponde vuol dire che non lo sa nemmeno lui. Sono almeno 8, sono almeno, da Milano mi risponde, sono almeno 8. Non so come ci staremo tutti quanti su quel palco e non so nemmeno quando esattamente potrete iscrivervi al live, ma mancano pochi giorni. Tra pochi giorni sul sito sarà disponibile il form, che è quella pagina da compilare con i vostri nomi e i vostri dati per iscriversi gratuitamente, e quindi a breve potrete cominciare a farlo. Intanto segnatevi la data, che è giovedì 26 di giugno 2014, è giovedì, quindi non avete scusanti per il weekend, non ci sono partite importanti del mondiale, quindi non potete avere scuse riguardo a quello. C'è il live di questo programma che chiude la stagione il 26 di giugno, e insieme a noi Mauro Ottolini, voilà! E rieccoci, le 16 e 11 minuti, sempre in diretta, noi continuiamo a fare il nostro lavoro, cioè a raccontare delle storie. La storia che raccontiamo oggi è una storia che sembra scritta apposta, non tanto per questo programma, per la radio. La radio è un mezzo senza gli occhi, è un mezzo che questo fa sì anche che sia un mezzo caldo rispetto agli altri, rispetto alla TV ad esempio. È un mezzo caldo proprio perché è fatto di parole e di sensazioni che non sono solo quelle visive, che per la maggior parte sono, diciamo, quelle che governano la nostra vita, no? Per cui quello che vediamo crea il nostro immaginario. Chi invece non può permettersi di vedere, perché non ha la possibilità, perché non ce la fa, perché non riesce, e quindi anche chi ascolta la radio se lo crea quell'immaginario. È spesso un immaginario sonoro per quanto riguarda questo mezzo, ma in altri casi sono immaginari invece tattili o gustativi. E oggi andiamo esattamente in quella direzione. La storia di oggi è la storia di Edi, che purtroppo non è presente perché ha avuto dei problemi sul lavoro e perché ci ha chiesto semplicemente di non partecipare. La sua storia però parla di un incontro prettamente tattile. Edi è un non vedente a chi ascolta questo programma, e che ci manda questa storia che riguarda un pomeriggio su una corriera che a breve sentirete raccontate meglio da lui, che gli è rimasto impresso semplicemente perché ha toccato delle mani che non si ricorderà mai. 34 mai più, che non scorderà mai più. 349 238 6666, oppure il nostro profilo Facebook, che è Voi Siete Qui Radio 24, o il profilo Twitter invece, che è Voi Siete Qui R24. Se ce l'avete, e mi auguro per voi che ce l'abbiate, qual è il ricordo tattile più vivo che avete nella vostra memoria. Accarezzare le mani di vostra nonna o la pelle di un pesce, la pelle dello squalo, che dicono che sia ruvida. Sapete che dicono che la pelle dello squalo è incredibile, eh? Le robe che a guardare National Geographic tutti i giorni, squali e nazisti più o meno, Discovery e National Geographic, squali e nazisti, so tutto su squali e nazisti, come dice Ricky Gervais. O la prima volta che avete toccato la neve, 349-238-6666. Filippo ad esempio scrive: da bambino mia madre aveva un'azienda agraria che vendeva cibo sfuso per animali. La sensazione di infilare la mano in quei sacchi aperti e sentirla sprofondare accarezzata dai semi secchi e freddi è un ricordo bellissimo. Confesso che se mi capitasse l'occasione per rifarlo non me lo lascerei sfuggire. 349-238-6666. Il messaggio anche di Manuel, che dice: ho la necessità e il desiderio di immergere le mani nelle acque di mari e oceani, per me nuovi, e soprattutto di farlo prima degli altri che sono con me. Vabbè, Manuel, diciamo, questa ha a che fare con la patologia. Da sempre legato al mare, perché abito sulla costa dei Trabocchi in Abruzzo, sono stato sempre curioso di sapere che effetto mi facevano gli altri mari sulla mia pelle e ai miei occhi. Così a 10 anni ho toccato per la prima volta il Mar Rosso. Il ricordo tattile è stata una sensazione di secchezza e di leggero bruciore della pelle, dovuta alla maggiore quantità di sale presente nell'acqua. 349-238-6666. Chiudete gli occhi, magari non se state guidando. Se avete la possibilità, cercate di ricordare quella cosa che avete toccato con le vostre mani, che vi ha in qualche modo assegnato il vostro immaginario. Voi siete qui, Radio 24 su Facebook, voi siete qui, @radio24.it invece è la mail. E altrimenti, se non avete voglia di farlo, se non ve lo ricordate, ascoltatevi la storia di Edi. Era il 18 novembre del 2013. Erano circa le 7 di sera e stavo tornando a casa dal lavoro. Ero seduto in corriera, come mio solito, davanti. Ho il posto praticamente prenotato, anche perché sono un non vedente. Ero immerso nei miei pensieri, assaporavo il viaggio, il movimento ipnotico delle ruote della corriera. Gustavo anche la stanchezza di un massacrante lunedì al lavoro in un centralino. Sulla corriera, quel giorno, c'è un gruppetto che, pur avendo il biglietto timbrato fino a Palmanova, tenta di proseguire oltre. L'autista è un tipo molto pignolo, blocca al mezzo e chiama la polizia. Avviene parecchio trambusto e alla fine il gruppetto viene fatto scendere. Forse per allentare la tensione, visto che siamo rimasti fermi circa 20 minuti, sento che c'è una conversazione vivace tra due signore dietro di me. Mi colpisce la particolarità di queste due persone. Entrambe donne, una è anziana, l'altra è giovane. Ma la loro intesa è perfetta, tanto che, incoraggiato dal momento imprevisto, decido di intromettermi. Chiedo cosa sia successo e in simultanea mi fanno la ricostruzione. A questo punto chiedo i loro nomi. La persona anziana mi porge la mano e mi dice: Mina. Lei mi dà la mano sinistra. È una mano ruvida, da lavoratrice, forte, grande e protettiva, un po' come quella della mia mamma. Allungo la destra verso la ragazza, mentre la sinistra me la tiene sempre Mina. Silvia, dice la ragazza, e mi prende anche lei la mano, quella libera, appunto la destra. Ha la classica mano da fanciulla, liscia, morbida e affusolata, bella, protettiva. Sono catturato dal contrasto che c'è tra le loro mani mentre me le tengono. Tattilmente è stupendo. Mi piace, mi è sempre piaciuto. Sono felice, anche se di così poco. Fregandomene delle convenzioni, chiedo loro l'età. Mina dice: 17, portati male. E poi vediamo chi di voi indovina. Azzardo un 50, perché mi sembra una persona molto giovane e vitale. 71, mi risponde lei. Silvia invece dice che ne ha 20, ma poi scopriamo che ne ha ancora 19. Mentre la corriera finalmente riprende la corsa, la conversazione prosegue, poi come se fossimo da sempre stati amici. È bellissimo, una bella situazione. Mi giro, mi sollevo un po'. Mina mi prende stringendomela la mano sinistra, e mentre Silvia sta per prendermi come prima la destra, Mina la anticipa, le prende la mano e con la mano di Silvia nella sua mi prende la mano destra. Il contrasto è all'ennesima potenza, è una sensazione tattile stupenda. Io, lodando la struttura e la bellezza delle loro mani, sempre più sorpreso dalla loro armonia, chiedo a entrambe chi abbia la mano più grande tra di loro. Loro allora allungano i palmi, li sovrappongono e poi dicono uguali. I loro palmi sovrapposti sono geometricamente perfetti e accentuano ancora di più il ruvido della mano di Mina e il liscio di quello di Silvia. Coincidono perfettamente. Liscio e ruvido si compensano in un equilibrio perfetto, sono quasi una mano sola. Loro sorridono insieme e poi insieme mi prendono la mano destra. Le ringrazio della bellezza delle sensazioni che mi stanno facendo vivere. Voglio loro bene. Mi sento al centro dell'universo e mi dispiace che il viaggio stia per finire. Quando è il momento di scendere, ci salutiamo intrecciandoci tutti insieme le mani. Non so se le incontrerò di nuovo. Probabilmente no, come la maggioranza degli incontri che facciamo quotidianamente. Nella semplicità dei loro gesti mi hanno fatto sentire vivo. Mi hanno fatto sentire qualcuno. E non smetterò mai di ringraziarle abbastanza e di ricordare e rivivere questi momenti. Mina e Silvia, due angeli dalle mani di fata. Forse è perché non vedo, ma do grandissima importanza agli altri sensi, cosa che in questo mondo così ipervisivo accade difficilmente. To love you is to be proud of you. I paid for you with tears and swallowed all my pride. Da, da, da, da, da, da. Quando si imparano i cinque sensi da piccoli, viene istintivo fare una graduatoria. Vista, udito, gusto sono i sensi di serie A. Olfatto e tatto, quelli di serie B. Solo poi, diventando grandi, impariamo che una vita senza tatto e senza olfatto non è la stessa. Ad esempio, mi piace ascoltare la pressione che fanno le dita sui tasti del computer. Mi ricordo la pressione dei tasti di tutti i computer che ho avuto. Le moto vecchie, ad esempio, sono più difficili da guidare e si rompono spesso, ma quando scendi, dopo che hai fatto un po' di chilometri, senti per il corpo delle vibrazioni che compensano ogni fatica. Molto spesso i ricordi più forti sono legati a sensazioni provate attraverso i sensi meno considerati. Una delle prime volte che andavo fuori di casa da solo è stato per fare un festival di teatro nelle scuole, a Serra San Quirico, nelle Marche. Ero partito da Novara insieme agli altri sul pullman, ma al primo autogrill, Chiara, la nostra insegnante di teatro, mi ha chiesto di andare in camper insieme a lei. Con me sul camper ci sono Matteo, che si è diplomato lo scorso anno e va già all'università, Roberto, che è stato bocciato e ha cambiato scuola, e Mauro, che invece fa il classico. Loro non possono viaggiare sul pullman, la scusa è che non sono coperti dall'assicurazione della scuola, ma la verità è che Chiara preferisce tenerci separati, come una specie di punizione preventiva. Sul camper insieme a noi c'è anche la sua cagnetta, Ciotola. Quando salgo sul camper sono avvolto dall'odore della plastica, misto all'odore del frigo, del bagnetto del camper, delle ciotole di cibo per i cani e delle varie bocchette che ci sono lì, quelle degli impianti. Per fortuna quando arriviamo è tutta un'altra musica. Ci sono decine di ragazzi e di ragazze da tutta Italia. C'è una scuola intera adibita a dormitorio e mensa per tutti. La prima sera c'è subito la festa di addio di una scuola magistrale di Messina. Loro se ne tornano in Sicilia domani mattina. Io parlo tutta la sera con una ragazza che si chiama Teresa. È campionessa italiana di karate in una qualche categoria juniores. Passa metà dell'anno alle Isole Oglie. Ecco, basterebbe molto meno di questo per innamorarmi di lei. Quando è ora di andare a letto scopriamo che le camerate previste per noi e per la magistrale di Messina sono una attaccata all'altra. Io dovrei tornare in camper a dormire, ma non ne ho nessuna voglia. Dico a Chiara che la raggiungerò tra un po'. Lei storce la bocca, ma abbiamo passato una bella serata. Non ha motivi per alzare i toni e quindi si allontana. Lei non sa che dopo che se n'è andata, quando si è fatto silenzio, sentiamo la porta che si apre. Sono le ragazze di Messina che ci invitano nella loro camerata. E tutto avviene al buio, in silenzio. Entriamo in una dozzina. Teresa mi prende per mano e mi fa sedere sul suo letto. Ha una mano caldissima, con le dita lunghe e ossute. C'è un ragazzo che suona la chitarra in sordina, canta canzoni siciliane, quasi a bocca chiusa, a un volume bassissimo. Teresa mi appoggia la testa sulla spalla e mi tiene la mano. La sua testa pesa e io mi sento forte. I suoi capelli odorano di shampoo, di fumo di sigaretta e di sale del mare, o forse è sudore, ma a me piace tantissimo. A costringermi al distacco è il rumore dei passi nervosi della Chiara sul sentiero sotto la nostra finestra. Non ha resistito, ha trovato un motivo per arrabbiarsi e ci ha riportato in camper. Non ho nemmeno fatto in tempo a salutarla, Teresa. Speravo di addormentarmi con il peso della sua testa sul petto, odorando il profumo dei capelli. Invece mi sono addormentato su un camper con un cane sui piedi. Ecco, da allora l'odore del camper non l'ho mai più sopportato. And I forget just what it takes, and yet I guess it makes me smile. 049-238-6666. Adesso preparatevi a un elenco di sensazioni tattili che sono arrivati via SMS, che sono tutte in qualche modo stupende. So, chiudete gli occhi, ripeto, se non state guidando, e preparatevi. Emma: la cosa che mi piace di più toccare è la pelle liscia e morbida di mia nonna che ha 96 anni. Rosario: la pelle fredda di un serpente vivo. Giovanni: aver impugnato per un solo minuto la racchetta di Roger Federer l'anno scorso dopo la finale a Roma. Giovanni, non so come tu abbia fatto, ma te lo invidio moltissimo. Mi ricordo, Stefania scrive, di quando da bambina si mettevano le mani nei sacchi di farina di castagne alla ricerca dei gallozzoli, i grugni di farina da mangiare di nascosto nel retro bottega alimentare degli anni 50. Mettere la mano in un sacco di polistirolo di perle vergini era come mettere la mano nello zucchero filato, però ancora più leggero e ovviamente non appiccicoso come lo zucchero. Matteo da Padova: saltare a piedi nudi dentro le zolle di terra calda in campagna da mio nonno. Angelo: come dimenticare gli ultimi giorni di mia mamma. La mia mano perderà il ricordo della forma del suo viso e del suo calore quando la accarezzavo per confortarla e sentire il suo amore. Lo so che è troppo triste per leggerla, invece no, l'abbiamo letto. Avevo 16 anni quando ho toccato le tette la prima volta a una ragazza. Ancora adesso, se ci penso, mi sembra di sentire lo stesso stranguglione di allora. E ho 50 anni. Francesco da Monza vince totalmente con questo messaggio, non perché ha toccato le tette a 16 anni, ma per il termine stranguglione, che credo, ad esempio, chiede Alessandro Chiappini, a Roma si dice stranguglione? No, è proprio una roba del nord. 349-238-6666. Prima di chiudere, voglio leggervi un pezzo che ho tratto da un libro di cui vi ho già parlato una volta, ma è che sono intrippato e quindi ho voglia di leggervene un pezzo. L'autore si chiama Jonathan Goetschel e il libro si chiama L'istinto di narrare, e spiega perché gli uomini hanno bisogno di raccontare storie. E c'è un punto preciso in cui lui dice che l'idea per questo libro gli è venuta in auto mentre ascoltava una canzone. L'idea di questo libro mi è venuta ascoltando una canzone. Era una luminosa giornata d'autunno, stavo guidando in autostrada e cercavo una stazione su cui sintonizzare l'autoradio. Ero capitato su un brano di musica country. La mia consueta risposta a questo genere di calamità è quella di precipitarmi a premere un tasto qualunque pur di far cessare il rumore. Ma c'era qualcosa di particolarmente toccante nella voce di quel cantante. Così, invece di cambiare canale, ho ascoltato questa canzone che racconta di un ragazzo che va a chiedere la mano della sua amata. Il padre di lei lo fa attendere in salotto, dove vede le fotografie di una bambina che recita Cenerentola, va in bicicletta e corre in mezzo al getto d'acqua dell'irrigatore con un sorriso da gelato. Prima che la canzone fosse finita, stavo piangendo tanto da dover accostare. Stealing Cinderella di Chuck Wicks coglie qualcosa di universale nel dolore dolce di essere padre di una figlia, sapendo che non si sarà per sempre l'uomo più importante della sua vita. Rimasi lì per un bel po', sentendomi triste, ma anche meravigliato dalla rapidità con cui il breve racconto musicale di Wicks mi aveva fatto squagliare, portando allo scoperto tutta la mia vulnerabilità. Com'è strano, pensai, che una storia possa insinuarsi in noi in una splendida giornata autunnale, farci ridere, piangere, renderci allegri o adirati, farci accaponare la pelle, alterare il modo in cui immaginiamo noi stessi e il nostro mondo. Com'è strano che quando siamo a contatto con una storia ci lasciamo invadere da chi la sta raccontando. Il narratore ci penetra nel cranio e assume il controllo del nostro cervello. Chuck Wicks era entrato nella mia testa e lì dentro, acquattato nell'ombra, spremeva ghiandole e attizzava neuroni. Si chiama L'istinto di narrare, questo libro. Se per caso invece siete a Roma, come me in questo caso, e oggi, e avete voglia questa sera di sentire delle storie raccontate dal vivo che hanno a che fare con il tema Non ditelo a mia mamma, non dite a mia mamma che, noi siamo all'Apartment Bar a San Lorenzo e dalle 22 raccontiamo di queste storie. Io ne racconto una, poi chi vuole sale e lo fa. Noi ci sentiamo domani alle 16. Io intanto ringrazio tutti quelli che hanno reso possibile anche questa puntata, che sono Paolino Corleone, Tiziano Bonini a Milano, Alessandro Chiappini e Mauro Pesce invece qui da Roma. Ringrazio soprattutto Edi, perché la storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso sulla mappa. Sono Gianni, vivo Bologna. La storia di domani è la mia e parla di denti da latte. Questa è la mia storia e io sono qui.